快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。 请欣赏女高音歌唱家安琪拉·乔治乌演唱的著名歌剧中的咏叹调。

Oh. Oh! il mio cor ferito è già e l'indor fu che piano si l'indor mi lo sarà lo giurai la vincerò si Il tuo cor ricuserò, io l'ingegno aguzzerò, alla fin s'afferrerò e contento resterò. Sì, l'intorno mio sarà, lo giurai, la vincerò. Mi lascio reggere, mi fa guidar. Ma se mi tocca dove io devo, sarò una vipera, sarò. E cento troppoli prima di cedere, farò giocar. E cento troppoli. Cento troppo.